greatest of our common dangers. It's been unbelievable. I'm beginning a conversation with you, with America. Buongiorno America, di Stefano Pistolini. What's the danger of czars and other special advisors? Never before have there been so many executive posts that were not confirmed by Congress and who answered only to the president. Trionfante, spavalda, no? Vagamente minacciosa. Questa è la voce da Fox News, la televisione americana All News di Glenn Beck, l'uomo che a tutti gli effetti ha scavato la fossa sotto i piedi dello zar dell'ambiente, nominato da Barack Obama. Si chiama Glenn Beck, il conduttore si chiama Van Jones, lo zar, sarebbe meglio dire l'ex zar, ed è questa un po' la punta di diamante rilanciata non solo da Fox News ma da tante televisioni in questa mattinata americana, mentre gli americani si svegliano e accendono le loro televisioni. La notizia è dell'inizio di una rivoluzione di settembre contro gli zar, quegli zar, quei sapientoni, quegli onnipotenti voluti da Barack Obama per controllare determinate aree della società, del sociale, del mondo del lavoro, del mondo dell'imprenditoria americana. E Glenn Beck sta rilanciando proprio dalla sua televisione, dal suo programma, sempre estremamente surriscaldato, estremamente pressante nei confronti della politica, in particolare della politica democratica, rilancia, chiede ai suoi ascoltatori: trovate tutto quello che potete sui super consiglieri come Cass Sunstein, Mark Lloyd, Carol Browner. Vuole le teste di questi capoccioni, di questi grandi pensatori, di questi intellettuali prestati alla politica per volere di Barack Obama, che peraltro non se ne dà per inteso. Fa sapere che le dimissioni di Van Jones alla vigilia dell'importantissimo discorso di domani a Camera riunite sulla questione della salute, veramente sta andando rapidamente al calor bianco la politica americana. Comunque, che le dimissioni di Van Jones non sono state assolutamente una sua iniziativa. Per conto del presidente, questa volta ha parlato David Axelrod, ovvero il suo principale stratega, un uomo che vi abbiamo presentato, di cui abbiamo parlato tanto spesso nel corso di queste stagioni. Ha detto: assolutamente non è stata una iniziativa di Obama, è stata un'iniziativa personale di Van Jones, travolto, come vi abbiamo già raccontato ieri, dalla mancanza del processo di vetting, come lo chiamano gli americani, ovvero di verifiche sul suo passato, allorché sono saltate fuori storie come l'appoggio a un gruppo convinto che le stragi dell'11 settembre siano state un complotto governativo, o come la sua amicizia con Mahmoud Abu Jamal, una pantera nera di cui anche in Italia abbiamo sentito tanto parlare. For the first time in nearly 50 years, it appears a member of the Kennedy family will not be a member of the Senate. Questo è un servizio delle Associated Press, tutte le televisioni lo stanno riprendendo, perché pare che per la prima volta dopo la triste morte, triste scomparsa di partita di Ted Kennedy, non ci sarà un Kennedy nelle stanze del Congresso. Infatti Joe Kennedy, uno dei figli di Bob Kennedy, ha annunciato la sua rinuncia all'idea di candidarsi al seggio del Massachusetts del Senato, quello lasciato libero da suo zio Ted. È una procedura, se vogliamo, anomala, ma è una procedura, è un'anomalia tollerata, se così possiamo dire, negli Stati Uniti, questa trasmissione di potere, in un certo senso nel nome di una famiglia che del potere a tutti gli effetti è l'incarnazione, almeno del potere nella accezione democratica, ovvero i Kennedy. Joe ha detto di aver deciso che il miglior modo per contribuire al bene del pubblico è di continuare a lavorare con il Citizens Energy Corporation, un'organizzazione che fornisce energia a basso costo per i poveri. Rudolph Mills owns a business next door to the Faithful Word Baptist Church, so he went to Sunday night services to see. Questa è una notizia lanciata da ABC News questa mattina sulle televisioni americane. È una storia invece di America profonda, una storia che va in scena in Arizona, dove il ministro, il reverendo, il pastore di una piccola chiesa, lui si chiama Steven Anderson, un tipo biondo con i capelli a spazzola, la sua chiesa si chiama il Temp Faithful Word Baptist Church, la chiesa della parola battista del Tempio della Fede. Ha rilasciato un bel sermone intitolato Perché io odio Barack Obama, e in sostanza nel suo sermone invita i suoi fedeli a pregare per la morte del presidente. C'è stata una reazione immediata dei sostenitori di Obama, che hanno organizzato una marcia dell'amore, una love rally attorno alla chiesa di Anderson. La love rally, la marcia dell'amore per dissuadere le cattive intenzioni del pastore in questione, è stata organizzata da una sigla, perché gli americani hanno una sigla per tutti, una sigla People Against Clergy Who Preach Hate, ovvero la gente che è contro i preti che predicano l'odio. Primo piano. This North Carolina school principal had to decide whether or not to air President Barack Obama's speech for students in his school. C'è un preside che ha detto no, ma di presidi che hanno detto no ce ne sono dozzine, perché il discorso che a mezzogiorno ora di Washington, alle 6 ora italiana, Barack Obama pronuncerà dal liceo di Wakefield a Arlington, a due passi dalla Casa Bianca e dalla capitale, e indirizzato agli studenti di tutta America, è diventato rapidamente una questione controversa. Si sono sollevate subito furiose polemiche, perché in tanti, naturalmente, oppositori della Casa Bianca, in particolare politici repubblicani, hanno accusato Barack Obama di voler utilizzare questo discorso per influenzare gli studenti, addirittura per fare propaganda socialista, per promuovere la sua agenda politica. C'è molta discussione attorno al discorso in questione, al punto che la Casa Bianca ha deciso di rendere noto il testo del discorso in questione prima che Barack Obama lo pronunci a Arlington oggi pomeriggio. E noi ce lo siamo letti, studiati con attenzione, e vi possiamo testimoniare che in effetti è un discorso diretto che il presidente fa agli studenti, con una tematica che mi sembra per adesso sia sfuggita agli occhi dei principali osservatori. Il tema è quello della responsabilità, ma il tema della responsabilità degli studenti, ovvero della non delega di responsabilità, è un antico adagio dei predicatori, in particolare dei predicatori neri. È uno dei fondamenti della questione razziale, quando ancora la questione razziale era veramente infuocata negli Stati Uniti d'America. Di che cosa si trattava allora, come viene ripreso peraltro oggi da Barack Obama? Di non delegare agli altri la responsabilità per la evoluzione della propria condizione. I predicatori neri dicevano ai neri d'America: non aspettate che gli altri facciano qualcosa per voi, non aspettate di avere un risarcimento, non aspettate di essere appoggiati, aiutati, sospinti. Dovete voi comunque, anche in posizione di forte svantaggio, come vi potete trovare socialmente, dovete essere voi in prima persona a muovervi e a ottenere i migliori risultati possibili. Vi leggo adesso un paio di passaggi del discorso di Obama. Dice il presidente: ora io ho fatto un sacco di discorsi sull'istruzione, ho molto parlato di responsabilità, della responsabilità degli insegnanti che devono motivarvi all'apprendimento e ispirarvi, della responsabilità dei genitori che devono tenervi sulla giusta via e farvi fare i compiti e non lasciarvi passare la giornata davanti alla TV. Ho parlato della responsabilità del governo, che deve fissare standard adeguati, dare sostegno agli insegnanti e togliere di mezzo le scuole che non funzionano, dove i ragazzi non hanno le opportunità che meritano. Ma alla fine noi possiamo avere gli insegnanti più appassionati, i genitori più attenti, le scuole migliori del mondo. Nulla basta se voi non tenete fede alle vostre responsabilità. Teacher in my soul, and so it goes. calm my indignation, but I'm pure in all my thoughts. I'm alive. Veniamo alle prime pagine dei giornali che stanno uscendo nelle edicole americane, che vengono consegnate, ci piace molto questa immaginetta, vengono consegnate dai paperboy, no? I ragazzini in bicicletta sui prati delle case suburbane dove abita gran parte d'America. New York Times apre con un articolo di politica internazionale dedicato naturalmente alla crisi medio orientale, anche questa volta scritto a quattro mani, come capita allorché a un articolo si cerca di dare una profondità particolare. In questo caso sono Eric Schmidt e Scott Shane a firmare il pezzo intitolato, l'analisi intitolata "Il cuore del dibattito sull'Afghanistan è: più truppe fermeranno il terrorismo", e i due analisti chiaramente danno a vedere nel corso dell'articolo di non pensare affatto in questa direzione. I 68.000 soldati americani che entro la fine dell'anno Obama stanzierà in Afghanistan sono il braccio di quella che la Casa Bianca ha definito una guerra di necessità, una guerra necessaria, ovvero utile per non permettere ai talebani di ricreare in Afghanistan quel santuario di Al-Qaeda che abbiamo conosciuto, ben conosciuto negli anni 90. Però sottolinea l'articolo, il sostegno popolare, il sostegno degli americani nei confronti di questa guerra sta svanendo giorno dopo giorno, e la sensazione che si possa trattare di una trappola infernale invece cresce sempre più. Allora, interrogando critici, addetti ai lavori, specialisti, i giornalisti del New York Times raggiungono la conclusione che diverse dovrebbero essere le strategie da quella quantitativa, dal numero di truppe stanziate in Afghanistan. Innanzitutto l'uso di una intelligence di grande qualità, poi l'uso di drones, no? Gli aerei senza piloti, l'utilizzo di missilistica mirata e operazioni speciali di commandos, nonché addirittura il foraggiare, secondo loro, con grandi cifre, con un sacco di quattrini, i signori della guerra, in modo che neghino il rifugio ai principali esponenti di Al-Qaeda. Washington Post invece si interessa di elezioni, perché è cominciata ufficialmente, anzi è a 57 giorni dall'arrivo, una corsa elettorale importante, quella per il governatorato della Virginia, la poltrona di governatore della Virginia, una corsa che avviene in anni, diciamo così, dispari, ovvero non elettorali, non in coincidenza con le elezioni presidenziali né con quelle di medio termine. Sono due i concorrenti, il democratico Craig Deed e il repubblicano Robert McDaniel. La sorpresa dopo la vittoria dei democratici in Virginia con Barack Obama, adesso la situazione invece vede favorire McDaniel, il repubblicano, anche perché molto violenti, molto decisi sono gli attacchi di McDaniel nei confronti dell'avversario Deeds, accusato di essere l'incarnazione su base locale, su base statale, proprio di quella statalizzazione della Virginia che Barack Obama starebbe praticando a livello nazionale. Calano gli indici di gradimento degli americani nei confronti di Obama e, per effetto domino, anche il gradimento nei confronti del candidato governatore democratico è in calo. Infine, rapidamente vi segnalo un libro che ad alcuni di voi potrà essere di grande interesse. È pubblicato da Random House, da leggere in inglese almeno per adesso, ma è molto sottile, solo 120 pagine. Il titolo è The Death of Conservatism, la morte della conservazione in America, firma di Sam Tannenhaus, che è il direttore della molto riverita New York Time Book Review. Un libro che analizza la la nostalgia per una componente conservatrice forte in America, in un certo senso un conservatorismo efficace, etico e intellettualmente strutturato è qualcosa di cui l'America non smette di avere bisogno nelle parole, nell'analisi interessante, concisa, assai efficace di Tannenhaus. Vi ricordo ancora il titolo: La morte del conservatorismo, The Death of Conservatism. Buonanotte, Cina. Abbiamo detto, c'è il Pandan quotidiano, quello nato 3 anni fa con Jefferson Ming, resta ben acceso anche con Buongiorno America e appunto Buonanotte Cina, e restano di conseguenza presenti, ben vive, vivaci e affettuosamente salutate a noi le voci che avete già conosciuto, come quella di Saro Capozzoli, che debutta oggi e noi lo accogliamo con tanta simpatia. Ciao Saro, come stai? Ciao a tutti, sto bene, grazie. Saro a Shanghai in queste ore e comincerà a darci una mano, come sempre, con la sua esperienza, la sua conoscenza diretta, la sua osservazione delle cose della Cina, giorno per giorno, man mano che affronteremo i temi che arrivano da Oriente. Saro, oggi ti inviterei a commentare una doppia notizia, una doppia inchiesta che arriva dalla Cina. Il primo dato che emerge da questa inchiesta sostiene che in Cina il suicidio è la prima causa di morte dai 15 ai 34 anni, ovvero tra i giovani, è un dato ufficiale dell'Ufficio Municipale della Salute di Pechino, ed è un dato naturalmente altrettanto sconvolgente. Al tempo stesso emerge da China Daily un'altra notizia, riguarda la possibilità per i giovani cinesi di abortire addirittura fino all'ottavo mese, addirittura con una serie di facilitazioni, di sconti, di corsie preferenziali per giovani e studenti. È un disegno, insomma, di una Cina giovanile dove il disagio, vecchia parola italiana del gergo sociologico, sembra delinearsi in modo intenso, particolare, e in qualche modo fa risuonare quello delle nostre parti. Come puoi commentare, Saro, queste notizie? Sono due cose diverse, ma sono collegate in qualche modo, no? Perché i tempi che cambiano si sentono molto qua in Cina. La prima notizia, appunto, non mi sorprende, anche se io pensavo che fossero i tumori la prima causa di morte qui in Cina, per l'inquinamento, eccetera. Il discorso è che qui c'è una forte pressione sociale sui giovani. Se voi pensate che ormai da 40 anni che c'è questo divieto di fare più di due figli, quindi c'è la politica del figlio unico, no? Quindi ci sono una schiera di bambini unici, di figli unici, che hanno due genitori, quattro nonni e così via. Certo. Quindi è una piramide rovesciata. Cioè, certo, il futuro della famiglia, di tutte queste famiglie, sta sulle spalle di una sola persona. Pressione, quindi. Sì, 15 anni è l'età in cui probabilmente il bambino può aver anche fallito, il ragazzo, di essere entrato ad esempio in una buona scuola superiore. E più avanti si può anche fallire nel lavoro, si può non vedere, intravedere una prospettiva di successo perché si fallisce in qualcosa. Ecco, quindi c'è una pressione enorme perché tutto ciò che riguarda la famiglia è sulle proprie spalle. Poi ecco Saro, questa pressione, diciamo così, è organica al modo di pensare cinese, nel senso non viene messa in discussione in linea di massima? No, perché c'è proprio una tendenza, ma c'è stata una pausa che riguarda la rivoluzione cinese, la rivoluzione culturale, no? Dove era tutto vero il contrario di tutto, ecco. Ma già prima, specialmente in questi ultimi 20 anni, c'è una competizione molto accentuata nelle scuole, emerge chi riesce a studiare di più, a impegnarsi di più, tant'è vero che qui gli studenti vanno a scuola anche nel weekend, le ferie vengono usate per aggiornamenti, non ci si ferma mai. Quindi nel momento in cui qualcuno, per motivi diciamo fisici, personali o qualsiasi, non solo c'è certamente suicidio dovuti a motivi d'amore, anche certo, se potrebbe certo anche sembrare, ecco. Certo. E dall'altra parte c'è anche questo, il fatto del figlio unico porta anche a, nel momento in cui una ragazza, una giovane donna che non si è ancora realizzata, resta incinta, viene spinta veramente dalla società, da ciò che sono i parenti, la società stessa a praticamente a liberarsi del bambino, perché proprio non, se no dovrebbe veramente, non dico abbandonare la famiglia, ma resterebbe da sola. No? Mi viene da usare due parole, Saro, fatalismo e sottomissione. Diciamo è antagonismo che fa praticamente a questo, sì, abbiamo da una parte un paese che in 20 anni ha concentrato, sintetizzato 300 anni di sviluppo industriale europeo, certo. Dall'altra parte abbiamo io lo chiamo il software, che non è ancora pronto ad accettare le regole del mondo civile, ecco perché, anche perché ci sono etiche, c'è un modo di vedere, un'etica, diversa, che non vuol dire che sia sbagliato, che sia, è semplicemente diverso. Infatti quando ci si pone con loro, con i nostri amici così cinesi su questi argomenti, si finisce sempre così: voi non riuscirete a capire perché noi siamo diversi, abbiamo 7000 anni di cultura, mentre voi vi gingellavate con le asce, diciamo, andavate a cacciare i boschi, noi mangiavamo già nei piatti di ceramica e vestivamo di seta. Va bene. Ti ringrazio, grazie a Saro Capozzoli, lo risentiremo spesso in questa parte dedicata alle storie di Oriente del nostro appuntamento quotidiano. Naturalmente la notizia è in circolo anche nei notiziari, ma arriva da Pechino, riguarda questi 35 minatori morti e 44 al momento considerati dispersi per la esplosione di Grisù in una miniera di carbone nel Henan, una notizia che ha un sapore antico, naturalmente una tragedia permanente. Allora, appuntamento a domani con Buongiorno America, in regia Alessandro Chiappini e Valerio Occhetti a Roma, Filippo Aureggi a Milano, in redazione Antonella Migliaccio. Io sono Stefano Pistolini, ci sentiamo domani attorno alle 13:30.